Il quadrifoglio. Consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili. Quattro elementi per la nostra vita. In collaborazione con ARCAV, Associazione Giornalisti Agroambientali di Veneto e Trentino Alto Adige. A cura di Emanuele Cenghiaro. Parliamo oggi di mais, perché vorremmo fare il punto su una vicenda di cui forse si è parlato troppo poco. Lo scorso anno, causa soprattutto la siccità, una gran parte della produzione di mais ha sviluppato un livello di aflatossine superiore ai limiti di legge per l'alimentazione. Si tratta di un problema non da poco per il Veneto, sia per l'economia degli agricoltori che si sono trovati con un prodotto non commercializzabile, sia perché il mais non è solo polenta, ma è anche il prodotto principale della nutrizione dei bovini allevati appunto in regione. Quindi gli agricoltori si trovano ora con una mole di prodotto non utilizzabile per l'alimentare e una carenza invece di silo mais per gli allevamenti, e quello che c'è è a prezzi in crescita. Ora la regione ha proposto una soluzione per usare il mais danneggiato per produrre energia rinnovabile nei biodigestori, ma rimane il secondo problema: dove reperire il mais per i bovini. Questo dovrebbe essere il quadro, e di questo vorremmo parlare oggi con Denis Susanna, presidente di CIA Treviso. Benvenuto intanto in trasmissione. Buongiorno a lei e a tutti i radioascoltatori. Ecco, le volevo chiedere se il quadro è stato sintetizzato correttamente e poi anche che cosa sono queste aflatossine, perché l'anno scorso c'è stata questa situazione così particolare. Sì, allora il quadro che lei ha fatto, anche se è molto sintetico, però è molto preciso. E il problema principale è che noi nel corso del 2012, nell'estate, abbiamo avuto almeno 80 giorni di grande siccità con temperature molto molto elevate, come mai era successo negli ultimi decenni. Questo tipo di situazione climatica ha sostanzialmente fatto sì che un fungo che si trova normalmente nei terreni, diciamo, sia emigrato nella spiga del mais, proprio per trovare un po' di acqua, e questa è una legge della natura, quindi non c'è assolutamente nulla di particolare, che qualsiasi essere vivente in condizioni di particolare stress cerca di autoriprodursi e di propagarsi. Di conseguenza, proprio questa carenza di umidità ha fatto sì che questo fungo si degeneri Aspergillus, si propaghi, arrivando, diciamo, in taluni casi a superare quei limiti che sono considerati dall'Unione Europea potenzialmente pericolosi per sia la salute degli animali sia la salute dell'uomo. Questo, diciamo, è il quadro generale in cui ci si muove. Per quanto riguarda invece i dati a cui lei faceva riferimento, normalmente l'Italia importa un 20-25% di mais che non riesce a produrre per l'alimentazione umana e zootecnica. Noi abbiamo in Veneto perso circa il 45% del mais proprio per la riduzione delle rese ad ettaro, e all'interno di questa grande riduzione circa una metà è proprio, diciamo, sostanzialmente non conforme a questo tipo di normative, per cui il provvedimento che la Regione Veneto ha messo in campo è un provvedimento che cerca una soluzione per quel mais che non è più destinabile a uso zootecnico, uso umano. Per quanto riguarda però l'aspetto, come dire, della sicurezza, io voglio altresì tranquillizzare tutti i radioascoltatori consumatori, perché la Regione Veneto immediatamente, ancora a fine estate, si è attivata con dei provvedimenti attraverso la Sanità Veneta affinché i servizi appunto veterinari e sanitari fossero messi in condizione di poter aumentare il numero di controlli che già normalmente vengono effettuati sia nei magazzini di stoccaggio di questi prodotti, sia presso le aziende agricole e zootecniche, sia presso i caseifici e le latterie, che sono poi quelle preposte alla, diciamo, alla trasformazione del latte, al confezionamento, eccetera. Quindi la prima questione con cui tranquillizziamo tutti è che non è stato immesso nel mercato del mais che non risulta regolamentare con le normative. Esatto, questa è un'informazione che è dovuta, perché quello che noi oggi ci troviamo, come dire, a confrontarci, a discutere, è un problema che riguarda la filiera agricola, zootecnica, ma non riguarda un problema di sicurezza per i consumatori. Anche se alcune organizzazioni agricole, tra cui la vostra, avevano chiesto anche in via eccezionale di innalzare il livello permesso di questo fungo, sì, che non è stato recepito poi, mi pare. Sì, sì, anche su questo tema lei è molto preparato, perché diciamo che di fatto noi abbiamo degli studi alla mano fatti sia dall'Università Cattolica, dall'Università di Padova, ma sono dei studi fatti a livello mondiale. Sostanzialmente ci dimostrano con sperimentazioni fatte che i limiti che attualmente l'Unione Europea adotta sono molto molto molto restrittivi, perché se noi andiamo negli Stati Uniti i limiti sono circa 10 volte più alti di quelli previsti in Unione Europea. E ricordiamo che noi abbiamo, per quanto riguarda prodotti diciamo che arrivano di importazione a base di carne, che possono essere bovina o suina, ma anche animali vivi, perché recentemente è stato aperto un libero scambio con tutta l'area americana dell'importazione di suini vivi, lì i limiti sono più alti, ma non è che gli Stati Uniti come dire, siano più leggeri in quella che è la sicurezza alimentare, tant'è vero che anche lì c'è un ente che si occupa di questo, per cui la CIA, la nostra organizzazione, insieme con le centrali cooperative Confagricoltura e Copagri, hanno chiesto sostanzialmente a livello ministeriale, al Ministro della Salute e naturalmente al Ministro dell'Agricoltura, alla Regione Veneto e a tutti quanti quelli che in qualche maniera hanno delle competenze in materia, proprio di poter rivedere questi limiti, supportati però su base scientifica, non fatta dal mondo agricolo ma fatta dal mondo della sanità, della ricerca e così via. Perché oggi noi siamo in una condizione, come diceva lei, di dover importare oltre il 50% della produzione, e soprattutto adesso il prezzo del mais è anche in calo, qui noi abbiamo una situazione grave perché abbiamo una filiera in grande difficoltà economica. Ecco, su questo torniamo tra poco e ci sentiamo fra pochi minuti. Grazie. Il quadrifoglio. Consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili. Quattro elementi per la nostra vita. Bursting through a blood-red sky, a slow landslide, and the world we leave behind. It's enough to lose your head, disappear, and not return again. When I fall to my feet, wearing my heart on my sleeve, all I see just don't make sense. You are the port of my call, you shot and leaving me raw. Now I know you're amazing, 'cause all I need is the love you breathe. Put your lips on me and I can live underwater, underwater, underwater. To lose my head, disappear, and not be seen again. When I fall to my feet, wearing my heart on my sleeve, all I see just don't make sense. You are the port of my call, you shot and leaving me raw. Now I know you're amazing, 'cause all I need is the love you breathe. Put your lips on me and I can live underwater, underwater, underwater. Underwater, with your love I can breathe. torniamo in linea con la trasmissione Il Quadrifoglio. Oggi stiamo parlando di mais con il presidente dell'associazione CIA Treviso, una delle principali associazioni degli agricoltori. Stavamo parlando della situazione del mais e di una situazione di filiera abbastanza in crisi. In crisi perché il prezzo del mais è in calo, lei diceva, e gli agricoltori lo pianteranno o non lo pianteranno, quindi si aggraverà ancora di più la situazione di questo prodotto che dicevamo è la base dell'alimentazione bovina oltre che umana. Sì, allora noi abbiamo sicuramente un problema di approvvigionamento di materia prima, perché noi abbiamo praticamente circa 2/3 della produzione che viene a mancare, perché se aggiungiamo il calo della produzione al prodotto che non è conforme, noi siamo in grande difficoltà. La regione ci ha autorizzato per andare nei digestori per produrre energia, quello che non è conforme e va bene perché si toglie prodotto che è in più dal mercato, dall'altra parte siamo costretti ad importare del prodotto, quindi c'è effettivamente un problema di un prodotto di qualità che non c'è. C'è un problema di costi che è stato molto elevato all'inizio della campagna, adesso c'è una lieve flessione, ma abbiamo comunque il problema degli insilati di mais che sono anche meno nutrienti perché c'era più sostanza secca, meno energia, e infine c'è il problema comunque della filiera proprio dei produttori di mais, perché di fronte a molto prodotto scartato, alla riduzione della produzione, e spesso i pagamenti sono ancora bloccati nell'incertezza di recuperare una parte del prodotto, per cui siamo in difficoltà per le semine. Per cui come CIA stiamo proprio scrivendo in queste ore una lettera da trasmettere a tutte le banche affinché ci possano finanziare l'avvio della campagna, da una parte, mentre dall'altra abbiamo proprio il problema che c'è stata una riconversione a frumento e quindi ci saranno meno sicuramente meno coltivazioni. Ecco, senta, l'ultima domanda per il consumatore, l'abbiamo tranquillizzato dal punto di vista della sicurezza, come conseguenze cosa ci sarà? Un aumento dei prezzi delle carni? Lei prevede oppure non ci accorgeremo? Purtroppo no, tra virgolette, nel senso che molti allevamenti di carne bovina stanno chiudendo. Probabilmente ci potrà essere su altre filiere, penso a tutte le carni bianche eccetera, dove il costo è normalmente anche più basso, quindi magari lì ci potranno essere dinamiche diverse che però in questo momento io non sono in grado di dire. Quello che posso dire per certo è che molte aziende zootecniche da carne di bovini stanno chiudendo e stanno chiudendo proprio perché di fronte all'aumento dei costi di produzione che riguarda anche il latte, però non c'è un trasferimento del valore poi del bovino, della produzione di latte eccetera, per cui abbiamo la zootecnia in grandissime difficoltà per questi motivi, e vediamo già i bilanci 2012, sono sostanzialmente tutti in perdita, e se non ci saranno delle reazioni in qualche maniera sul mercato, credo che questo sarà l'ennesimo colpo che subirà il nostro settore zootecnico, che per fortuna ha sempre garantito serietà, qualità delle produzioni. Bene, su questo argomento ritorneremo sicuramente, ci terremo sott'occhio la situazione. La ringrazio di questa presenza. Grazie a voi e a tutti anche i radioascoltatori. Grazie. Passiamo adesso ad alcune brevi notizie. Insieme con Gusto, la manifestazione agroalimentare dedicata al radicchio di Chioggia si svolge questo fine settimana presso l'orto mercato di Brondolo, frazione appunto di Chioggia, dalle ore 9:30 fino alle 22. Produttori agricoli, rivenditori, artigiani e commercianti verranno coinvolti in una manifestazione agroalimentare ed enogastronomica. In calendario convegni, laboratori didattici e degustazioni. Informazioni sul sito internet www.chioggialive.it. È nata la rubrica web Prodotti Veneti in Tavola, realizzata dalla Regione Veneto in collaborazione con le associazioni dei consumatori operanti nel territorio regionale. Alla pagina in questione si accede dal sito internet www.venetoconsumatori.it selezionando la sezione Alimentazione. La rubrica viene aggiornata mensilmente con tutti i prodotti di stagione, sia quelli freschissimi, sia quelli raccolti in precedenza ma utilizzabili al meglio e disponibili in commercio. Vengono anche segnalati i prodotti tradizionali del Veneto, illustrati da una scheda che individua la peculiarità, la zona di provenienza e fornisce informazioni sulla storia, le tradizioni del prodotto, il processo di produzione e il periodo di disponibilità nel corso dell'anno. Chiudiamo con due convegni, come difendere l'agricoltura dai cambiamenti climatici, se ne parla sabato 23 marzo a Porto Tolle presso la Sala della Musica in un convegno promosso dal locale assessorato all'agricoltura. Interverranno Giancarlo Mantovani, direttore del Consorzio di Bonifica Delta del Po, e Federico Correale di Veneto Agricoltura. Il valore della terra è il complesso tema che sarà invece affrontato il 6 aprile in Corte Benedettina a Legnaro nell'ambito di un convegno promosso dalla Cassa di Risparmio del Veneto. Tra i relatori vi sono due esperti dell'Università di Padova, Giuliano Mosca, che interverrà sulle innovazioni della granicoltura sostenibile, e Giuseppe Zonin sul tema della gestione delle malerbe nel grano in agricoltura conservativa. Anche per questa settimana è tutto, vi diamo appuntamento alla prossima e ascoltateci sul sito internet www.bluradioveneto.it. Avete ascoltato Il Quadrifoglio, consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili, quattro elementi per la nostra vita, in collaborazione con ARCAV, Associazione Giornalisti Agroambientali di Veneto e Trentino Alto Adige.